24 mattino. Volevo solo fare una precisazione, ma perché non parlate delle varie manifestazioni che ci sono state ieri in Italia? Tipo davanti al comune di Milano, tipo a Roma, tipo a Torino, perché non ne parlate di queste cose qui? Ma come fate ancora a parlare di Stati Uniti d'Europa? Ma come fate? Prima ci hanno attaccato per il fatto di non darci fondi, di deriderci perché siamo stati prima ad essere colpiti. Adesso ci attaccano sul fatto del turismo, ci vogliono tagliare completamente fuori dal turismo e voi ancora parlate di Stati Uniti d'Europa? Primo fronte, quello che ci diceva l'ascoltatore delle proteste che ci sono state ieri. Sì, ce n'è stata qualcuna, ci sono stati alcuni ambulanti in piazza, ci sono state le proteste di alcune categorie giustamente preoccupate, non solo di questa fase ma anche della lentezza dell'avvio di alcuni provvedimenti, a partire dai soldi del decreto liquidità, che non è che siano arrivati con la rapidità che ci si aspettava. Effettivamente ci sono state, vedremo che evoluzioni avranno. Tra l'altro ieri appunto c'erano gli ambulanti in piazza Milano, oggi avremo ospite il sindaco di Milano Beppe Sala alle 8.35 e gli chiederemo anche che risposte la città di Milano intende dare alle aziende in difficoltà, alle aziende del territorio. Sull'altro fronte, gli Stati Uniti d'Europa, adesso ci arriveremo, anche nella parte centrale della nostra rassegna stampa ci sono tanti spunti. Il riferimento, avevamo prima ospite Francesco Cancellato, vice direttore di Fanpage, che diceva l'accordo raggiunto ieri tra Francia e Germania, ossia questi 500 miliardi di euro messi sul piatto nel bilancio europeo, sostenuti da debito comune, sono il passo più importante che si sia visto verso gli Stati Uniti d'Europa. È forse un'iperbole, però di certo il fatto che la Germania abbia aperto a un'idea di condivisione del debito è qualcosa di assolutamente innovativo e che finora non avevamo visto. Certo, la dimensione non basta, non è quello che voleva l'Italia. L'Italia avrebbe voluto di più, certamente, puntava a 1.000-1.500 miliardi per questo recovery fund. E però il segnale che è arrivato da Berlino ieri è senza dubbio un segnale importante, posto che ovviamente questo denaro avrebbe delle condizioni, per così dire. Cioè, visto che sempre di questo si parla, se ne parla anche quando ci occupiamo del MES, il meccanismo europeo di stabilità. E però è un segnale da tenere presente e che non manca di essere sottolineato oggi dai giornali. Questa è la seconda parte di 24 mattino, sono le 7:21 minuti di martedì 19 maggio ed è la parte appunto dedicata alla rassegna stampa. Ci sono due giornali che aprono su questo, sono La Stampa e La Repubblica. La Stampa parla di Europa, scommessa UE, scommessa da 500 miliardi, il patto Merkel-Macron, secondo il ministro Amendola, è un primo passo. L'editoriale di prima pagina è firmato da Marco Zatterin e si intitola Il barlume di un'unione solidale. E poi La Repubblica, che parla di un patto Merkel-Macron e un aiuto per l'Italia. Germania e Francia lanciano appunto questo piano da 500 miliardi, 100 possono andare a Roma. Conte parla di un buon inizio. Il commento di Andrea Bonanni parla di sovranisti spiazzati. Le altre aperture sono dedicate a quest'Italia che riparte. L'Italia riapre, ma non tutta, secondo il Corriere della Sera, perché riaprono 7 attività su 10. L'Italia riparte a ostacoli, secondo il Messaggero. Quotidiano Nazionale, virus in ritirata ma forse tornerà, si dedica a questo e c'è l'immagine a centro pagina di un parrucchiere, di un barbiere, una ragazza che sta tagliando i capelli con una macchinetta e con la mascherina naturalmente ad un cliente. Il titolo è Un taglio al lockdown. Il paese è allo sbando, secondo Libero, che parla di un governo senza bussola, di un decreto rilancio che ancora non c'è, come abbiamo detto prima, e quello sulle riaperture delega ogni scelta alle regioni. Il giornale che dice che la fase 2 inizia male perché non salvano i negozi e uccidono le scuole private, l'Italia riparte ma tanti protestano, così non ce la facciamo, oggi si vota sui fondi all'istruzione, c'è il rischio di chiusure a tappeto. Il Sole 24 Ore ci racconta che i negozi sono riaperti con sconti fino al 70%, un avvio lento per negozi pubblici e pubblici esercizi, con vendite sotto la media pre-Covid, poco meglio per i negozi di vicinato. Nei negozi di abbigliamento partono vendite promozionali con sconti che possono arrivare fino al 70%. Sole 24 Ore che presenta anche un'intervista a Gianni De Gennaro che mercoledì 20 maggio parteciperà all'ultima assemblea di Leonardo da presidente, lo diventò nel 2013, realizzata a Paolo Bricco, prevenzione dei reati in azienda come quando ero poliziotto. E poi a centro pagina ovviamente il titolo su Angela Merkel ed Emmanuel Macron. La Verità, il Fatto Quotidiano e il Manifesto si dedicano almeno in parte o del tutto in apertura alla questione del prestito con garanzia dello Stato a Fiat Chrysler. I soldi ai lavoratori non arrivano, è il titolo della Verità. Ai Benetton e agli Agnelli invece sì, perché appunto anche i Benetton si preparerebbero a chiedere questo prestito garantito dallo Stato. Il Fatto Quotidiano parla del ricatto di Fiat Chrysler che terremota partiti e giornali, Renzi contro Orlando e Pro El Can sui 6 miliardi garantiti dallo Stato, Calenda che parla di un governo appecoronato, testuali parole, appecoronato ai grandi gruppi industriali. Il Manifesto, benvenuti in paradiso, parla del prestito miliardario del governo a Fiat Chrysler che secondo il Manifesto non si può discutere. Ricordiamo naturalmente che non è un prestito del governo ma è un prestito da una banca garantito dal governo in termini di decreto liquidità. L'Italia si è ridesta, è il titolo di Avvenire, la ripartenza nel giorno del crollo di contagi e vittime e ovviamente Avvenire insomma ha un titolo forte sulle messe aperte, la gioia di popolo, cioè la ripartenza delle celebrazioni religiose. La foto è quella della prima messa nel Duomo di Milano ieri mattina alle 8. Infine la Gazzetta dello Sport che ormai sembra aver quasi rinunciato a occuparsi della ripartenza del campionato con Conte punta al top, Inter pronta al piano per la svolta e poi appunto di taglio basso la ripartenza in Serie A e il nodo della quarantena. Iniziamo dunque, mentre vi aspetto come sempre al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio e le vostre voci, anche quelli scritti di WhatsApp e di SMS se volete. Iniziamo come sempre da qualcosa di laterale, qualcosa di più piccolo. Come sapete, ieri il Veneto ha fatto un accordo con l'Emilia Romagna, il Trentino, per cui i congiunti, i cosiddetti congiunti, potranno vedersi anche se abitano da una parte o dall'altra del confine. Insomma, l'accordo è stato stretto. Ma ci sono altre regioni nelle quali questo ancora non funziona. E allora devo dire che è delizioso, a pagina 16 del Giorno, il racconto di Pierfrancesco De Robertis inviato a Giugnola. Ora Giugnola è una microscopica frazione che ha questa caratteristica: metà è frazione di Fiorenzuola e quindi regione toscana, metà è frazione di Castel del Rio e quindi Emilia Romagna, e sostanzialmente questo paese è letteralmente diviso in due. Già dal cartello stradale capisci che c'è qualcosa di strano. Appunto, Giugnola, frazione di Fiorenzuola, se arrivi dalla Toscana, Giugnola, frazione di Castel del Rio, se arrivi dall'Emilia Romagna. Eppure Giugnola sono 50 case in pietra e 67 anime che si ostinano a non abbandonare questo paesino in mezzo all'Appennino tosco-emiliano, nonostante la distanza da tutto, e vivono il riflesso dei divieti di transiti interregionali nei tempi del coronavirus, scontando le ricadute della stolida burocrazia all'italiana. Nonostante la dimensione ristretta, Giugnola si ritrova infatti in due regioni diverse. Gli abitanti sono stati costretti a erigere di nuovo quel muro invisibile che un tempo proprio qui, attorno all'ex palazzo della Dogana, situata in mezzo alle case, divideva lo Stato Pontificio dal Granducato di Toscana, luoghi di contrabbandieri e doganieri, li ricordate? Massimo Troisi, Roberto Benigni, dove andate, cosa portate, un fiorino. I luoghi sono sostanzialmente quelli, cioè il concetto è più o meno quello. La situazione con le regole del virus non è cambiata di molto e dunque i 30 abitanti della metà toscana non possono andare a fare la spesa come sempre al Castel del Rio, 10 minuti in auto sul versante bolognese, ma devono andare a Fiorenzuola, che dista 40 minuti. All'opposto, i 30 emiliani non possono sconfinare fino a Piancaldoli, Firenze, a soli 2 chilometri, che ha un negozietto di generi alimentari buono per un piccolo rifornimento. Oddio, posso dirvi una cosa, che ho l'impressione che le regole a Giugnola saranno comunque piuttosto lasche. Visto che siamo su piccole storie, insomma, in questa prima parte nella quale ci prendiamo anche un po' più di leggerezza, è sicuramente all'insegna della leggerezza il pezzo che troviamo a pagina 16 del Fatto Quotidiano di Tommaso Rodano, che ci racconta di sesso, droga e piccioni, autocertificazione addio. Tira fuori 10 tra le migliori autocertificazioni presentate alle forze dell'ordine in questi mesi e ne troviamo. Animalista. La struggente fuga dalla famiglia di un ragazzo di Albano Laziale è stata narrata sul Foglio con queste parole: al momento sono senza casa perché mia madre e mia nonna non mi vogliono più con loro e quindi passo il tempo a dar da mangiare ai piccioni, la ritengo una cosa importante, questa l'autocertificazione per essersi allontanato troppo da casa. Ancora, un uomo è stato multato a Verona malgrado l'autocertificazione testimoniasse la natura incontestabile del suo stato di necessità. Appuntamento con l'amante. Ma si combatte su entrambi i lati della barricata. Così una signora di Nettuno, provincia di Roma, ha provato a giustificare la comprovata esigenza di pedinare il suo congiunto. Seguo mio marito per vedere se ha un amante. E ancora, stipsi canina. Punto 6. Come fare se il quadrupede non si sbriga? Un uomo è stato fermato insieme al suo cane in un comune diverso da quello di residenza, a 12 chilometri di distanza. Cosa ci posso fare se i bisogni li fa solamente qui? E poi quello mitico, quello di Como, 31 anni, sono uscito per andare a caccia di Pokémon con Pokémon Go in giro con il cellulare, si è allontanato un po' troppo da casa ed evidentemente l'ha scritto nell'autocertificazione. Firenze, 33 anni, mostra alla polizia una certificazione schietta, diretta, sincera: devo comprare droga. E poi il lavoro a finire. Difficile contestare la necessità professionale di un 31enne di Catania, fermato nei pressi dell'ospedale Garibaldi. Dice: sto andando al lavoro. Fatto sta che è un parcheggiatore abusivo. Una pausa. Mattino. Un ascoltatore che critica gli Stati Uniti d'Europa, l'obiettivo degli Stati Uniti d'Europa, e vorrei far riflettere su che cosa sarebbe l'Italia in questo momento se fosse al di fuori del contesto europeo. Non voglio pensare che si escluda la voce delle persone che sono state massacrate sia dalle istituzioni che chiaramente da questo virus. Ma perché vogliamo bruciare le tappe subito, tornare subito alla normalità, che è quella che ci ha condannato? E poi dall'Europa quanti soldi vogliamo noi italiani? Continuate a dare sta notizia, ma ne vogliamo uno sproposito per poi far andare tutto a rotoli, come sempre? Oh, e questa qua si apre il grande dibattito, vuoi i soldi da Bruxelles ma per farci cosa? E qua si innesta tutta la discussione sulle condizionalità, perché insomma, c'è un partito che dice non ci vogliono condizioni e c'è un partito, non inteso come partito politico, che dice invece, beh ragazzi, qualche condizione ci vuole, perché sennò finiamo per continuare a finanziare all'Italia, diciamo idealmente e come concetto. Sul fatto di ripartire, come dice l'ascoltatore, insomma, tornare alla normalità, insomma, no, ma è chiaro che non torneremo alla normalità, almeno per il momento, a me pare evidente. E poi sul dar voce a chi ha difficoltà, mi pare chiaro, come dicevo, abbiamo fatto sentire prima quel messaggio audio, le proteste, ieri qualche protesta c'è stata. Invece, guardate, scusate, durante la pausa stavo ridendo per Daniele da Correggio, che a proposito delle autocertificazioni ci ha scritto: durante la fase 1 giravo di notte in bici, in mimetica nera e grigia per le strade di campagna. Sono arrivato fino a 16 km da casa. Anzi, Daniele, che non ti hanno arrestato ritenendoti un personaggio sospetto. Allora, lungo quali direttrici proseguiremo per questa parte della rassegna stampa? Innanzitutto il tema delle riaperture. In generale, andremo a dare un'occhiata sul territorio e non solo. I temi politici correlati, e quindi i rapporti tra lo Stato e le regioni, l'Europa e quindi Bruxelles, l'accordo Merkel-Macron, ma non solamente quello, anche l'intervista a Christine Lagarde rilasciata oggi ad una serie di giornali di testate internazionali per l'Italia e Corriere della Sera, e poi il turismo, grande tema, e infine ci sarà un pezzo della stampa che voglio leggervi, arriva da Paolo Russo e ha a che fare con un errore nel protocollo dell'Istituto Superiore di Sanità per i tamponi. Scoppia un caso di falsi negativi. Attenzione, perché è un punto interessante. Dunque, la riapertura. Abbiamo visto da molti giornali che i calcoli generali indicano che 3 esercizi su 10 hanno deciso, almeno per il momento, di non riaprire, per tutta una serie di motivi: difficoltà a farlo, non chiarezza delle regole, valutazione dell'inutilità di riaprire in una fase come questa. Fatto sta che con Enrico Netti il Sole 24 Ore ci racconta che innanzitutto i negozi di abbigliamento partono con sconti che arriveranno fino al 70%. Il primo giorno della fase 2, dice Netti, ha visto la riapertura di negozi, bar e ristoranti, parrucchieri, grandi magazzini e la stragrande maggioranza dei centri commerciali. Naturalmente cartelli con le regole anti-Covid, numero massimo di clienti nel punto vendita, ma soprattutto un quadro di sconti che potrebbe arrivare fino al 70% tra mid-season sale, si chiamano così adesso, saldi di mezza stagione, vendite promozionali, sconti eccezionali per essere più vicini ai nostri clienti, perché insomma c'è tutto il fatturato di 2 mesi da recuperare, quindi cercare di catturare l'interesse delle persone. Secondo Confcommercio, ad aprile il crollo dei consumi è stato del 47%, questo solo per darvi la misura. Nel dettaglio poi Vera Viola da Napoli ci racconta che in 100.000 in Campania hanno rialzato la saracinesca. E Nino Amadore da Palermo ci dà 2 elementi invece: i problemi della piazza di Palermo. Un gruppo di 150 imprenditori è sceso in piazza manifestando davanti al Teatro Massimo, simbolo della bellezza e della rinascita del capoluogo siciliano, per lanciare un messaggio e chiedere interventi immediati. Ci sono 2 questioni importanti che non ci permettono che non ci mettono in condizione di ripartire in serenità, dice Gigi Mangia, proprietario di un ristorante nel Salotto Buono della città, via Principe di Belmonte. Uno è quello della responsabilità civile e penale, ci espone e per questo chiediamo che si intervenga. E poi i fallimenti, ci sono aziende sane che si trovano momentaneamente in difficoltà, bisogna dare loro la possibilità di rimettersi in pista, e però appunto la liquidità in parte ancora non arriva. A Siracusa apre solo il 10% degli esercizi commerciali, questo giusto per darvi un'idea. Sui giornali trovate racconti da singoli negozi ovunque. Vi prendo il Corriere della Sera solo per farvi un esempio: Ciampino Salvini che riparte dalle regole a Roma, siamo in centro a Roma, per sedere vicini autocertificatevi, cioè dovete dire se siete congiunti, parenti o se siete solamente amici. Il ristorante Do Forni di Venezia, amato anche da Pertini, riapro, dice il titolare, ma so già che ci rimetterò. A Napoli il negozio di Marinella che riapre delle cravatte, la prima cravatta venduta all'alba, un nuovo inizio e quindi maggiore soddisfazione, un po' di caos per le auto a Milano, racconta il Corriere della Sera, ma il quadro di questa fase 2 che si apre, insomma, è un po' così rappresentato. Fase 2 che porta, come ben sapete, anche un nuovo scontro o quantomeno una nuova tensione tra le regioni e il governo. Qua abbiamo un retroscena sul Messaggero a pagina 6 di Alberto Gentili, che ci racconta della tregua raggiunta in realtà con i governatori, con il comitato tecnico che però dice: attenzione, sono state lasciate troppe libertà. Dopo una lunga guerra chiusa domenica pomeriggio con il varo del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la seconda fase di allentamento del lockdown, il governo si tiene stretta la tregua. Niente disegno di legge costituzionale per inserire la clausola di supremazia dello Stato sulle regioni o altri giri di vite. E stop alle polemiche. Anzi, giovedì il ministro degli affari regionali, Francesco Boccia, tornerà a riunire i governatori per decidere insieme l'azzeramento delle procedure amministrative che frenano l'attività dei settori produttivi già duramente colpiti dalla pandemia. E dunque, per così dire, c'è una maggiore tranquillità rispetto alle tensioni tra governo e regioni che si erano registrate nelle scorse ore. Da segnalare in questa pagina del Messaggero che si torna sul tema dell'INAIL e della possibilità per gli imprenditori di essere perseguiti penalmente nel caso nell'azienda ci siano dei contagi da Covid-19, ossia l'assimilazione ad un infortunio sul lavoro, fa sapere, racconta sempre Alberto Gentili sul Messaggero, che il governo non ha intenzione di intervenire. Una fonte governativa vicina al dossier dice che questa storia della responsabilità penale è una sciocchezza. Se c'è un contagio, l'azienda non ha alcuna responsabilità se ha rispettato i protocolli di sicurezza. Ma Umberto Mancini, sulla stessa pagina, intervista la vice ministra dell'economia Laura Castelli, che dice che il governo serve una misura ad hoc per tutelare penalmente appunto gli imprenditori. Restando però sul tema delle regioni, qua c'è, dobbiamo registrare questa tregua che insomma forse non regge tanto, se l'intervista realizzata da Marco Cremonesi con Luca Zaia dice questo: regioni fondamentali, ci sono stati pasticci e li hanno fatti a Roma. E insomma è anche piuttosto ironico Zaia nei confronti del Presidente del Consiglio Conte, il solito format Conte, diretta Facebook al sabato sera, le carte al giorno successivo inoltrato, noi il testo lo abbiamo avuto soltanto alle 17.30 di domenica, io comunque avevo già distribuito le linee guida al sabato mattina per dire in che modo si sarebbe riaperto. Penso che ci sia un retaggio recondito di alcuni palazzi che non sono disposti a condividere mai qualunque forma di autonomia. Vista da Roma, l'autonomia è una sottrazione di potere, dice Zaia. Vista da noi, è un'assunzione di responsabilità. Ma io credo che il responsabile sia chi non vuole l'autonomia. Da qui discendono certi pasticci. Sottolineare ancora questa sorta di distanza da Roma. Vi segnalo anche a questo proposito, visto un punto interessante, la provocazione, è quasi una provocazione, che arriva da Innocenzo Cipolletta a pagina 13 sul Sole 24 Ore, il quale Innocenzo Cipolletta dice, raccontando un po' e riassumendo quali sono state le tensioni tra il governo e le regioni, dice questo: in queste condizioni c'è veramente da domandarsi se le regioni abbiano un senso come entità amministrative e se occorra dare loro altre competenze. Il rischio è quello di avere tanti presidenti regionali rissosi, come si è visto in questa emergenza, perché detentori di un mandato elettorale che non riescono ad assolvere, essendo loro naturalmente nell'incapacità di risolvere i problemi locali. Forse sarebbe meglio tornare alle province e fare delle regioni un consesso di secondo grado, così come di fatto avviene nella regione del Trentino Alto Adige. Quindi l'idea di Cipolletta è, diamo più poteri alle province e sottraiamo potere alle regioni. Una provocazione oppure un'idea, vedetela come volete, anche su questo. E sul tema autonomia, statalismo, centralismo, autonomia e centralismo, il dibattito ovviamente è aperto. Una pausa. Mattino. Comunque ieri sono andato da barbiere senza nessun problema, senza appuntamento, ho aspettato il mio turno lì fuori, mi sembrava di entrare in un ospedale, ma comunque ecco, sono riuscito a farmi i capelli tranquillamente. A noi non hanno ancora mandato niente di quello che abbiamo chiesto come piccole imprese e prestiti restituiti, non a fondo perduto. Però li danno a queste grandi multinazionali come la Fiat. I soldi dall'Europa li vogliamo veramente a titolo gratuito? Perché se ho bisogno di soldi vado in banca, me li regalano. L'Italia ha bisogno di soldi, come ha bisogno di soldi privati che devono comprare casa o devono mandare all'università i figli. Oh, in realtà il prestito a Fiat Chrysler ancora non l'hanno dato, è in fase di valutazione, un prestito, lo ricordiamo ancora una volta, richiesto a Intesa San Paolo con la garanzia di SACE, appunto, come previsto dal decreto liquidità, un prestito da oltre 6 miliardi di euro che varrebbe per le attività italiane di Fiat. A questo con molta durezza si dedica, ve lo abbiamo raccontato già dai titoli, no? Il Fatto Quotidiano, vi si dedica il Manifesto, il Fatto Quotidiano parla addirittura di un ricatto ai Fiat Chrysler, vi si dedica il Manifesto, Claudio Tito sulla Repubblica ci racconta che il governo sarebbe intenzionato a puntare a regole più rigide per il prestito a Fiat Chrysler, l'impegno chiesto alle aziende a non distribuire dividendi potrebbe essere esteso di un anno, in ballo c'è ovviamente questo dividendo straordinario previsto per l'operazione di fusione con Peugeot, sul quale punta i riflettori anche per esempio Carlo Calenda. Qua vi segnalo dal Sole 24 Ore un paio di cose. Marco Bonometti, presidente delle officine meccaniche Rezzatesi, che intervistato da Matteo Meneghello dice quel denaro è necessario anzitutto per fornitori come noi, ma soprattutto Marigia Mangano ci racconta quella che potrebbe essere un'altra mina politica per il governo, ossia un fronte che chiaramente potrebbe aprire per così dire, vista la battaglia messa in atto dal Movimento 5 Stelle, da un pezzo della maggioranza nei confronti dei Benetton per la vicenda di Ponte Morandi, anche questo potrebbe essere un elemento. Dopo la Fiat, i Benetton valutano lo scudo MEF, lo scudo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ossia appunto un prestito garantito. Questo ci racconta Marigia Mangano sul Sole 24 Ore, lo trovate da poche altre parti, anzi lo trovate sul Sole 24 Ore, se non vado errato, sulla verità. C'è tutta la questione europea che è aperta, qua c'è il come raccontavamo l'accordo raggiunto ieri tra Merkel e Macron per questo recovery fund, questo fondo appunto per la ripresa post-Covid da 500 miliardi. C'è chi polemizza perché insomma tutto si è realizzato ancora una volta sull'asse franco-tedesco, escludendo di fatto altri paesi, e però come fa notare Lina Palmerini sempre sul Sole 24 Ore non è una notizia insomma alla quale il Presidente del Consiglio può rimanere indifferente. Una buona notizia tutto sommato, come raccontano tutti, un buon punto di partenza. Questo commento di Palazzo Chigi all'intesa in questo commento di Palazzo Chigi all'intesa Merkel-Macron c'è tutta la fase 2 di Conte con l'Europa, perché se nella fase 1 il governo aveva scommesso sugli eurobond e aveva respinto il MES, ancora lo fa, anche sul Recovery Fund era stata raccontata un'altra storia. Era diventato una specie di fondo salvagente, soprattutto per la dote finanziaria. Dai 1000 ai 1500 miliardi si auspicava a Roma, di cui una parte a fondo perduto e un'altra di prestiti. Ieri però l'accordo tra Germania e Francia si è chiuso a 500 miliardi a fondo perduto, la metà della base negoziale su cui puntava il Premier, che però a questo punto ovviamente non ha potuto che benedire l'intesa. Insomma, come capite, anche dal punto di vista politico questo passaggio è un passaggio rilevante, così come mi pare rilevante l'intervista che Christine Lagarde rilascia al Corriere della Sera e una serie di altre testate internazionali in merito al famoso patto di stabilità. Il patto di stabilità, come sapete, in questa fase di crisi da Covid è stato sospeso, e quindi le regole del patto di stabilità, per intenderci il famoso 3%, e anche le regole del debito non valgono. E però Christine Lagarde, la presidente della Banca Centrale Europea, fa un'intervista nella quale dice in sostanza che il patto di stabilità va rivisto prima che torni in vigore. E quindi è un segnale importante. Ovviamente parla anche in questa intervista del mandato della Banca Centrale Europea, dello shock ricevuto dall'economia europea, uno shock notevole, senza uguali in tempo di pace. Dobbiamo farvi fronte con determinazione per aiutare le nostre economie a rialzarsi al più presto in modo da evitare una crisi sociale. Torna a dire che la stabilità dei prezzi è il cuore del mandato della BCE. E però in circostanze come quelle di oggi, nelle quali l'inflazione e anche le attese di inflazione è nettamente inferiore all'obiettivo e l'economia è in recessione, la BCE insomma deve perseguire una politica monetaria accomodante quanto necessario per stabilizzare allo stesso tempo l'inflazione e l'economia. Sembrano dettagli queste parole di Christine Lagarde, ma sono punti importanti. Altri temi, il turismo. C'è una mossa italiana che è scattata ieri, è stata proposta all'Europa un report sulle regioni d'Italia sicure. Sono in corso trattative tra i ministri degli esteri per rilanciare subito i flussi nei paesi europei, perché interesse ovviamente non solamente nostro ma di tutta l'Europa, ne racconta il Messaggero a pagina 17 con Cristiana Mangani. E c'è un pezzo del Fatto Quotidiano che non è niente male, ci racconta a pagina 17 questo, che dato che i sindaci dovrebbero essere i responsabili, le amministrazioni comunali, dei controlli sulle spiagge libere, ossia che si rispetti il metro di distanza, che sono più metri di distanza in realtà sulla spiaggia, che la gente non si affolli, che si indossino le mascherine quando dovuto, eccetera eccetera, molte regioni stanno pensando, non dico di cancellare le spiagge libere, ma quasi, di dare in concessione almeno per un anno anche le spiagge libere ai gestori degli stabilimenti balneari, per far sì che poi appunto il controllo delle regole sia demandato a loro. In chiusura, ve l'avevo promesso, questo retroscena, così viene chiamato, ma in realtà è una notizia che ci dà Paolo Russo sulla Stampa a pagina 16, e ha, se permettete, dell'incredibile. Un rapporto sbagliato dell'Istituto Superiore di Sanità su come eseguire i tamponi, poi corretto ma che circola ancora nel web, e poi controlli eseguiti prima che il virus sia rilevabile. Sono queste le cause principali dei tanti falsi negativi al Covid, anche con polmoniti conclamate. Un problema denunciato dal presidente del SIS-118, Mario Balzanelli, da Fabrizio Pregliasco. I falsi negativi, se che i falsi negativi siano più di quanto si immagini, lo rivela uno studio della prestigiosa Johns Hopkins School of Public Health, che tra i tamponi eseguiti al quinto giorno dall'infezione ha scoperto ben il 38% di falsi negativi. Indicava questo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, corretto 10 giorni dopo, un modo di fare il tampone in diagonale non solamente sbagliato, ma con rischio di lesioni al cervello e al bulbo olfattivo. Questo per darvi l'idea. GR24, ci troviamo subito dopo con Maria Latella, parleremo con la ministra della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone e poi col sindaco di Milano Beppe Sala. A dopo.